dove scappa, dove corre, non esiste luogo. Che asciughi il tuo pianto, che ti possa riparare. L'amore quando arriva è una tempesta, annulla ciò che sei, niente ti resta. Pensavi, credevi, eri sicuro. Quella via diritta che percorrevi fosse proprio la tua strada. Poi è bastato un attimo precoce per frastornarti e toglierti la pace. Bentornato amore, come stanno le stelle? Oggi è il giorno che aspettavo da te e senza te. Ero triste, un po' stanco e ora sono confuso ed intorno tutto sembra cambiare e non so cos'è. Rivederti è stato come un sogno. Ma il tempo, si sa, cancella il sentimento. Ti restano i ricordi che non hai cancellato, dentro al tuo passato. Ti saluto amore, oggi devo scappare, ho da fare, ma se nulla è in contrario aspettami qui. Devo solo pensare, progettare un ritorno sul mare, la riva di un giorno che comincia così. Con il tuo forte abbraccio, e se tu ci sarai ad aspettarmi, sarà l'ultima volta che io me ne andrò, perché io senza di te sono sabbia nel vento, e fermarmi sarà come appoggiare il mio cuore sul tuo.